Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Giornate sempre caldissime in borsa sui mercati finanziari. Ieri siamo praticamente stati in diretta costantemente per raccontarvi quello che accadeva sulle piazze finanziarie, anche alla luce del maxi intervento concertato da parte delle banche centrali delle principali economie, che hanno deciso alle 13 di ieri di tagliare il costo del denaro. I tassi di interesse sono stati tagliati di mezzo punto, quindi sono stati portati ovviamente su livelli differenti a seconda dell'economia di riferimento, e ovviamente c'è stato un taglio anche da parte della Banca Centrale Europea, che ha portato il tasso di sconto nell'Eurozona alle 3,75%, eravamo al 4,25%. Allora, perché vi raccontiamo questa notizia oggi, se è di ieri? Perché oggi parliamo di mutui. Era molto invocato, insomma, questo taglio dei tassi, ovviamente per cercare di calmare un po' la tensione tra le banche, che sono in grossa difficoltà in questo momento, non solo nell'Eurozona, c'è una crisi pesantissima che ci trasciniamo dagli Stati Uniti, ma è anche un taglio che ovviamente vedono di buon occhio anche tutte quelle famiglie italiane che hanno un mutuo a tasso variabile, che lo stanno restituendo. Molte famiglie che magari non hanno in questi mesi deciso di adottare nessuna misura per poter alleggerire la propria rata, in attesa che anche magari il mercato si tranquillizzasse. Quello che noi oggi vorremmo fare è fare proprio un punto generale della situazione. È un tema che, come sapete, a Salva Danaio affrontiamo spessissimo, però in questi giorni la cronaca ci ha imposto di dirottare l'attenzione altrove. Però questo è un tema sempre caldo, sempre oggetto di grande attenzione da parte di tutti. A che punto sono i mutui e soprattutto a che punto sono i provvedimenti che sono stati varati negli ultimi due anni, diciamo, a partire dalle misure di Bersani, che hanno decretato la portabilità a costo zero del mutuo da una banca ad un'altra che ci faccia migliori condizioni. Come sapete, poi nei mesi scorsi è venuta anche la convenzione ABI-Tremonti per riportare le rate ai livelli del 2006, quindi oggi rifacciamo, alla luce anche della crisi finanziaria attuale, un punto generale della situazione con Roberto Anedda, responsabile marketing di Mutui Online. Buongiorno e ben ritrovato. Grazie, buongiorno agli ascoltatori. Ovviamente Roberto, è tutto per voi. 800 24 00 24 per le vostre domande, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Prima di fare il punto della seduta anche di borsa, che come anticipavamo nel giornale radio è positiva, ma sta leggermente ridiscendendo adesso il quadro generale, quindi le piazze del vecchio continente stanno viaggiando leggermente al di sotto dei massimi di seduta che avevano raggiunto. I rimbalzi erano nell'ordine del 3%. Adesso vedo Parigi che ancora resiste, più 2,56, rallenta invece Francoforte, più 0,90, Londra più 1,58, rallenta anche Milano, più 1,69% sull'S&P MIB. Quindi segno che tutti i provvedimenti che vengono presi in questi giorni, insomma, hanno praticamente un effetto che non dura quasi per niente. Segno che ancora si viaggia nella massima incertezza, e vedremo, insomma, di potervi portare magari buone notizie nei prossimi giorni. Intanto, come sapete, anche ieri sera nel nostro paese il governo ha varato il decreto che vuole tutelare, anzi ampliare, il raggio delle tutele per le famiglie italiane, per i conti correnti, per i depositi bancari. Il Tesoro ha anche detto, ieri sera c'è stata questa conferenza stampa congiunta delle Premier Berlusconi, del Ministro dell'Economia Tremonti e del Governatore della Banca d'Italia Draghi, in cui è stato anche detto state tranquilli, nel nostro paese nessuna banca fallirà. È stato ribadito come il sistema bancario italiano, anche se in difficoltà alla luce di tutto quello che gli accade intorno, è assolutamente solido. E sentiamo allora Tremonti che cosa ha specificato su questi punti, che sono quelli che noi tradizionalmente tocchiamo a Salva Danaio, toccando anche il punto delle tutele per i conti di deposito. La fiducia è una componente essenziale del sistema. Il sistema italiano ha il più stabile e strutturato sistema di garanzie sui depositi. Eravamo già sopra la soglia che il Consiglio europeo del 7 ottobre ha raccomandato a tutti i paesi europei. L'Italia era già sopra quella soglia europea. Siamo in attesa della disciplina europea di questa materia. Opportuno aggiungere alla garanzia mutualistica in essere la integrale garanzia pubblica. Ma in ogni caso non è questo il punto centrale. Noi pensiamo che non esiste in assoluto, in radice, un problema sui depositi bancari, perché noi escludiamo il fallimento delle banche e lo facciamo con gli interventi. Roberto Nedda. Tremonti ha detto la fiducia è una componente essenziale del sistema, quella fiducia che ancora continua a mancare nel sistema bancario europeo, tanto che questo maledetto Euribor continua ancora a stare a livelli assolutamente alti a dispetto del taglio dei tassi che è stato fatto ieri dalla Banca Centrale Europea. Secondo lei è ancora normale che l'Euribor tardi ad adeguarsi al nuovo livello della BCE che possa portarsi sul 3,75% nell'immediato? Ci sembra uno scenario fantascientifico, però secondo lei arriverà un po' di serenità, poi andiamo alla scheda e ai mutui? Sicuramente nel medio termine sì. Però ci si poteva aspettare che, nonostante questo taglio, vista anche la reazione purtroppo alla fine negativa delle borse internazionali di ieri, nonostante il taglio concertato non solo della Banca Centrale Europea ma anche della Federal Reserve, della Bank of England, quindi, e varie altre banche in giro per il mondo, segno che comunque la tensione tra gli operatori finanziari e bancari permane, e inevitabilmente l'Euribor, che ne è la rappresentazione in termini di costo del denaro, non si adeguerà nell'immediato a questo taglio. Un taglio di mezzo punto è sicuramente drastico, importante, dà un segnale da parte delle istituzioni, ma la sfiducia e soprattutto la sensazione che tra le banche vi sia una certa crisi e difficoltà permane. Ci possiamo sicuramente aspettare che man mano che si capisca, il mercato percepisca che queste garanzie sono in essere a livello internazionale, sempre più quindi sì, controlli che non ci possano essere altri Lehman Brothers in circolazione o almeno senza paracadute, man mano porterà maggiore serenità nel mercato. Però al momento le banche fanno fatica a scambiarsi denaro, fanno anche fatica onestamente a farlo girare, perché le stesse famiglie o gli imprenditori hanno più difficoltà a investire o i propri risparmi o insomma i propri proventi in ulteriori attività, dato il generale clima di incertezza. Quindi tutta l'attività bancaria rallentata, in più con la sfiducia che permane tra gli istituti bancari, inevitabilmente la liquidità è scarsa e i tassi rimangono elevati. E i banchieri, come osserva puntualmente, in maniera anche, non so come dire, insomma divertente se vogliamo, prendiamola anche un po' così, sdrammatizziamo questa situazione, un nostro ascoltatore dice insomma i banchieri stanno facendo come i petrolieri, esattamente come è successo qualche mese fa: non appena il petrolio aumenta il suo livello e le sue quotazioni, il prezzo alla pompa della benzina schizza immediatamente, il procedimento al contrario invece tarda a trasferirsi proprio ai prezzi praticati ai distributori. Ma in ogni caso il tema nostro oggi non è la benzina, ma insomma è anche la benzina delle nostre famiglie, il mutuo. 800 24 00 24, prima delle vostre domande, la nostra scheda. Meglio tardi che mai. Così è stata accolta la decisione della Banca Centrale Europea, di quella americana e delle banche centrali delle principali economie di tagliare i tassi per contenere la grave crisi finanziaria mondiale. Ora i risparmiatori sperano che gli effetti di questo taglio si possano riversare anche sull'Euribor, il tasso in base al quale le banche calcolano l'ammontare della rata mensile dei mutui a tasso variabile. Proprio in questi giorni la scadenza a 3 mesi ha toccato un nuovo record, raggiungendo il 5,39%, con conseguenze pesantissime per le famiglie. Per coloro che sono legati al tasso variabile, questo significherà ad ottobre un rincaro fra l'1,8% ed il 5,5% rispetto al mese precedente, che le associazioni dei consumatori hanno stimato in un aggravio di oltre 500 euro l'anno. E in un momento in cui le banche non si prestano denaro tra loro e stringono la corda del credito anche ai privati, è plausibile immaginare maggiori difficoltà per chi vorrebbe alleggerire la rata e cambiare le condizioni del mutuo. Ma non basta. Con tassi più elevati, a risentirne sarà anche la rinegoziazione governo ABI, proposta come una via d'uscita dalla crisi e che rischia invece di allungare i tempi di restituzione del capitale ben oltre le aspettative e quindi anche il saldo finale del debito. Del resto, con la tensione alle stelle sui mercati finanziari per la crisi internazionale del credito, le banche rifiutano di prestarsi denaro fra loro se non a tassi stratosferici, a causa della sfiducia nella loro stessa tenuta. E anche il trasferimento del mutuo da un istituto a un altro attraverso gli strumenti della surroga o della sostituzione in questo momento incontra diversi ostacoli. Ma in una fase di estrema incertezza sui bilanci di banche e istituti finanziari è difficile anche per gli analisti sbilanciarsi con le previsioni. I più ottimisti si aspettano che un po' di fiato possa provenire dall'intervento coordinato delle banche centrali. La manovra sui tassi, però, potrebbe non essere sufficiente a riportare la casa calma sui mercati monetari e nelle case delle famiglie italiane. Sono già pronte ad intervenire all'800240024 Massimiliano da Prato, Colta da Milano, Angela da Brescia, a cui chiedo ancora un secondo di pazienza, perché prima di partire con loro volevo chiedere una cosa a Roberto Anedda. Allora, le banche non si prestano denaro fra di loro, lo fanno solo a condizioni di tassi molto, molto alti, e questo si trasferisce anche sull'Euribor. Le banche stanno cominciando anche con grande fatica ad erogare prestiti alle imprese, questo lo sappiamo, lo leggiamo su tutti i giornali. Mi chiedo se i processi di surroga, di portabilità del mutuo in questo momento hanno subito un ridimensionamento. Per esempio, se io volessi cambiare le condizioni del mio mutuo adesso, e ovviamente posso chiedere tranquillamente le condizioni ad un'altra banca, ma sono più o meno disposti ad accettare la mia pratica, a quale condizione? No, da questo punto di vista c'è da dire che il mercato della surroga non risente, o meglio non subisce difficoltà per il fatto che i tassi permangono elevati, se non per il fatto che comunque occorre confrontare il tasso del nuovo mutuo di surroga rispetto a quello precedente. Inevitabilmente, se i tassi rimangono più elevati, potrò avere un minor margine di convenienza, però ci sono parecchi istituti che offrono la surroga, operazione che comunque rimane a costo zero per il cliente, quindi c'è comunque ampio spazio per trovare delle grosse riduzioni di tasso e di rata rispetto a mutui a tasso variabile accesi anche in anni recenti, ma con spread vicini al 2%, che ai tassi attuali vuol dire pagare con un variabile un tasso vicino all'8%, sì, certo, dipende dallo spread, a fronte di tassi che quasi sempre in questo momento risultano fissi per chi passa a un nuovo mutuo con la surroga, e che invece rimangono addirittura sotto il 6%. Mm-hmm. Quindi una riduzione di 2 punti percentuali è comunque molto significativa. Quindi, insomma, il miglioramento è sempre legato alle condizioni pregresse che arriva, esatto, al proprio mutuo. E nello stesso tempo gli istituti non stanno frenando dal punto di vista nell'offerta della surroga. Le difficoltà a cui accennava anche la scheda sono fortunatamente più che altro di tipo amministrativo, nel senso che c'è sempre qualche banca, in questo caso la banca surrogata, cioè la vecchia banca che il cliente sta abbandonando, che mette un po' tempo in mezzo, impiega più tempo del dovuto per fornire i documenti, per accettare il pagamento di saldo del mutuo, per mandare il proprio funzionario dal notaio per l'atto di surroga, insomma tante piccole cose che non possono ovviamente impedire che la surroga si compia, ma magari la fa durare un mese o un mese e mezzo in più, un po' per cercare di dissuadere le banche concorrenti a fare surroga, in modo da rendergliela più costosa, dato che i costi poi li sostengono le nuove banche, e a creare, se vogliamo, un po' un clima in generale di percezione che la surroga non funzioni. In realtà non è così, la surroga funziona, però effettivamente in alcuni casi ci sono ancora problematiche burocratiche. Intanto sono anche mesi decisivi per tutte quelle famiglie che magari stanno valutando di aderire alla convenzione Abitremonti, sarà anche oggi l'occasione per fare il punto su questa circostanza. Entro la fine di agosto le banche italiane hanno dovuto inviare a tutti i sottoscrittori di mutui a tasso variabile le condizioni praticate nell'ambito di questa convenzione, oltre anche al fatto che sul mercato esistono anche altre opzioni. Ma prima di arrivare a questo, cominciamo subito a sentire i nostri ascoltatori, amici che ci seguono da casa. Allora cominciamo con Massimiliano da Prato, che mi pare chieda addirittura un ABC proprio della portabilità. Massimiliano, benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi fatto intervenire nella vostra trasmissione che seguo tutti i giorni. Grazie, è interessantissima, Massimiliano. Siete molto utili. Senta, io volevo fare questa domanda, dato che siete esperti, c'è un esperto lì con lei. Io ho rinegoziato, ho chiesto la rinegoziazione del mio mutuo con la banca, sì, che è un tasso variabile, sempre a tasso variabile, e loro mi hanno proposto inizialmente, diciamo, l'abbassamento dello spread che avevo all'1,30 allo 0,80, però cambiandomi anche l'ammortamento del mutuo, cosa che sì, mi abbassa la rata, da per esempio semestrale, da 4.700 euro a 4.000, le dico le cifre, sì, 150, però diciamo la funzionaria stessa mi ha detto: guarda, alla fine però paghi 1.500 euro in più perché te avevi ammortato tantissimo prima, insomma una cosa. Io ho un mutuo ancora, premetto che mi manca ancora 12 anni per finirlo, perché l'ho stipulato nel 2005. Quindi era dei 15 anni. 15 anni. Cosa è successo? Con l'arrivo di questa Tremonti, la stessa funzionaria mi ha quasi, diciamo, invogliato a desistere da questo, diciamo, 0,80 di spread, dicendomi: guarda, è meglio, perché sono buoni rapporti, e tanto tempo anche mio povero babbo, siamo a questa banca qua di Prato, da Calibrato, per cui voglio dire è anche conosciuta. Lei mi ha detto: praticamente ti converrebbe, Massimiliano, rimanere sul solito, diciamo, piano di ammortamento per non perdere, diciamo, i benefici dati dal fatto che hai 3 anni che hai pagato più interessi che capitale, abbassandosi lo spread allo 0,80, il beneficio è minore chiaramente sullo stesso piano d'ammortamento, risparmierei circa un 200 euro sulla rata di 4.700, quindi invece 4.150, 4.500, però cosa succede? Aderendo alla Tremonti, perché così riporterei la rata a 3.800 euro. Sì. Avrei sì uno spread in fondo negativo, diciamo così, di circa 11.000 o 12.000 euro, però risparmierei dall'eduzione dello spread 2.500 euro su quello che sto pagando ora. E io a questo punto le dico sinceramente, sono molto indeciso perché... No, ma questo è comprensibile, Massimiliano, lei è consapevole adesso, a parte tutti i vantaggi nell'immediato che la funzionaria ovviamente le ha spiegato molto bene, le ha anche spiegato quello a cui va incontro, certo, che è l'allungamento del mutuo, lei da 15 anni si potrebbe ritrovare a pagarne 16, così ecco, come 18, come... Io la domanda, dottoressa, è quello che le faccio a lei, cioè se gentilmente, perché non c'è un consulente, non c'è nessuno che ti dà un'indicazione, cioè nel senso, secondo voi, domando io, rimango sulla mia durata, quindi io fra 12 anni e 3 mesi finisco il mio mutuo portando la rata da 4.700 a 4.150, sempre variabile e riservandomi la possibilità o meno di accedere lo stesso alla Tremonti, perché non cambio istituto bancario, ma accetto praticamente di pagare questi 1.500 euro in più, che formalmente sono interessi che a me forse non mi toccano neanche, perché alla fine io pago 4.150, cioè invece già 4.700. Comunque il passaggio da 4.700 a 4.100 non è male, la riduzione dello spread non è indifferente, Massimiliano. Poi mettiamoci anche che l'Euribor, noi auspichiamo che se la dia una calmata prima o poi, per cui si ritorni anche un po' indietro rispetto alla rata. Adesso io non dico che lei possa tornare nell'immediato a 3.008, Roberto Anedda, comunque insomma non abbiamo proprio a che fare con uno sprovveduto, perché ha ben chiara la situazione tutto questo, però lui è allettato dalla proposta Abi Tremonti, Abi Governo, adesso non la assegniamo proprio al Ministro dell'Economia, insomma. No, sicuramente Massimiliano rappresenta un cliente che si informa, cerca di capire anche con conteggi diversi, facendosi aiutare da, insomma, dalla banca. Poi purtroppo nel suo caso non ha trovato un consulente, consulenti posso dire che ci sono sì, da questo punto di vista, per insomma farsi aiutare. Nel caso specifico c'è da dire questo, che i 1.500 euro in più, se ho capito bene l'argomentazione del funzionario della banca, che gli vengono calcolati, sono per il fatto che se gli applicassero la riduzione di spread gli farebbero sui 12 anni residui un nuovo piano d'ammortamento, quindi ricalcolando le quote da zero. Ovviamente questo sarebbe leggermente peggiorativo rispetto al piano di ammortamento attuale, proprio perché le quote di capitale sarebbero leggermente più basse nei primi anni rispetto a quello che pagherebbe adesso, però sempre sui 12 anni stessi. Quindi quei 1.500 in più, la mia interpretazione è che il costo complessivo che il nuovo piano di ammortamento, seppur con il tasso ridotto, gli potrebbero comportare rispetto a quello precedente. Onestamente io poi vorrei fare dei calcoli un pochino più precisi, perché comunque con mezzo punto di spread è difficile che un mutuo possa costare di più. Secondo me hanno fatto un po'... È un caso che insomma onestamente ci ha aperto la porta, spalancato la porta. Non consiglierei di andare sulla rinegoziazione in questo caso. Preferirei prendere lo 0,50 in più di spread, perché comunque uno 0,80 di spread, lo 0,50 in meno, chiedo scusa. Sì, dall'1,30 di spread allo 0,80 è sicuramente ottimo, ottimale. Soprattutto su una durata molto breve. Infatti. È vero che anche con la rinegoziazione il mutuo magari non si allungherebbe di tanto, però alla fine gli costerebbe ben più di quei 1.500 euro. Eccoci ritrovati in diretta, noi stiamo parlando della crisi finanziaria in corso, abbiamo ripescato un tema che non affrontavamo da un po', il punto anche sui mutui, anche perché le rate per chi ha un mutuo a tasso variabile continuano a diventare sempre più salate, dato che nonostante la mossa di ieri della Banca Centrale Europea e delle altre banche centrali, l'Euribor continua ancora a viaggiare sui massimi livelli, e ci sono molti ascoltatori che ci stanno chiedendo anche ancora delucidazioni sull'intervento che è stato effettuato ieri sera dal governo col decreto, che è appunto intervenuto con questa misura molto importante di sostegno al sistema bancario italiano. Berlusconi, il ministro Tremonti hanno promesso nessuna banca fallirà, e sono state praticamente supportate con l'intervento governativo le tutele che per i nostri conti di deposito, i nostri conti correnti già esistevano ed erano le più ampie d'Europa. Abbiamo un fondo interbancario di tutela dei depositi che tutela i nostri depositi fino ad oltre 103.000 euro. Ovviamente l'intervento del governo di ieri sera non interviene su alcuni strumenti di investimento, come per esempio le obbligazioni bancarie, ma noi su tutti questi temi torneremo domani a Salvadanaio con la collaborazione di Plus24 delle Sole 24 Ore, per cui potete dirottare su questo argomento le vostre domande a domani. Ritorniamo ai mutui. Colta da Milano, buongiorno, benvenuto o benvenuta. Buongiorno. Colta, non capivo il nome, sì, salve. Sì, buongiorno. Io sto chiedendo, sto facendo la sorda da un mutuo che io ho fatto, durata 30 anni, passati 3, ma da tasso variabile a tasso fisso. Sì. mi conviene aspettare ancora, o che faccio subito, che sono stato al taglio ieri, tasso di interesse mezzo punto. Mi conviene rimanere un po' cauto o fermare la surroga adesso, diciamo in questi giorni? Dipende quali sono intanto le condizioni forse della surroga colta, dipende anche da quali immagino siano le sue condizioni. Se lei si trova in grande difficoltà, forse magari alleggerire la rata dell'immediato è la soluzione più indicata, però dipende dal caso specifico, immagino. Roberto Anedda. Ma quello che possiamo dire è che, dovendo passare da un variabile a un fisso, già al momento la situazione dei fissi è particolarmente favorevole, perché abbiamo un'anomalia che ormai dura da quasi 2 settimane, nella quale i costi del denaro a lungo termine, che sono quelli che poi si usano per definire i tassi fissi dei mutui, sono notevolmente più bassi rispetto proprio agli Euribor, per la situazione di crisi che dicevamo prima. Quindi fare un mutuo quanto prima possibile, per quanto di surroga, a tasso fisso in questo momento può garantire di avere un tasso particolarmente conveniente, che non è detto che nei mesi successivi scenda ulteriormente, perché un primo effetto che il taglio di ieri c'è stato sui tassi non è stato, come abbiamo detto, sugli Euribor, ma c'è stato invece sugli IRS, cioè il costo del denaro nel lungo termine. Gli IRS sono scesi ulteriormente, parliamo di qualche piccolo centesimo, però è un segnale che comunque il mercato nel lungo termine prevede che prima o poi questa crisi vada a risolversi e che quindi il costo stesso del denaro possa essere più basso. Ovviamente è difficile che il costo del denaro nel lungo termine possa scendere ancora e in maniera così sostenuta, quindi fare un fisso alle condizioni attuali è già un buon momento. Viceversa, aspettando, ci si condanna tra virgolette a pagare per più mesi una rata di variabile che sarà sicuramente ancora molto onerosa. Noi non facciamo altro che parlare, perché ovviamente questo è il grande tema del momento, è stato il grande tema degli ultimi mesi, degli ultimi 2 anni almeno, di chi ha un mutuo a tasso variabile, quindi di chi ha già sottoscritto un prestito per l'acquisto della propria casa in passato. Però insomma ci scordiamo che ci sono molte famiglie che si accingono adesso a fare magari questo passo molto importante, per cui vogliono farlo nelle massime condizioni di serenità. Allora sentiamo Angela da Brescia e Francesca da Bergamo. Angela, buongiorno. Buongiorno, grazie per aver fatto intervenire. Io ho appunto il rogito della casa tra 5 giorni. Sì. Le palpitazioni. Lo so. Complimenti. Io avevo optato appunto per un mutuo a tasso fisso. Sì. Con uno spread dello 0,90, se non mi ricordo, ma sì, 0,90. Sì. Mi ha un po' risposto prima, spero, dicendo che il tasso fisso in questo momento non è disingrato, ecco. Volevo sapere se appunto conveniva in questo momento optare. Per quanti anni si impegna, Angela? Per 30 anni. Quanto, scusi? 30. 30? Sì. Quindi insomma un bel impegno che durerà a lungo. È chiaro che nel trentennio, magari se uno sottoscrive adesso un mutuo a tasso variabile che è svantaggioso, forse in 30 anni ci potranno essere di nuovo delle condizioni molto vantaggiose come quelle che abbiamo visto 3 o 4 anni fa. Roberto Anedda, però può anche non accadere. Ma Angela va già verso il rogito con grande agitazione e quindi forse è meglio che per 30 anni non stia molto agitata, non lo so. No, diciamo che proprio per la situazione che dicevamo poc'anzi è proprio il costo del denaro nel lunghissimo termine, proprio a 30 anni, che è sceso maggiormente, addirittura l'IRS 30 anni, che è quello sul quale dovrebbe essere poi parametrato il tasso del mutuo di Angela, è al 4,2%, quindi 1,090 vuol dire un tasso fisso del 5,10, che effettivamente al momento è addirittura più basso dell'Euribor stesso, quindi è sicuramente un buon inizio. Anche se i variabili in futuro dovessero scendere, Angela si garantisce per diversi anni di avere una certa convenienza con questo tasso rispetto al variabile stesso. E poi, proprio perché 30 anni sono lunghi, possono succedere tante cose più avanti, quando anche tutta questa crisi sarà rientrata negli anni successivi. Se Angela dovesse verificare che sul mercato ci fossero delle alternative, sempre a tasso fisso o a tasso variabile, particolarmente allettanti anche per le prospettive successive di mercato, potrebbe sempre approfittare di una portabilità successiva, ma al momento è sicuramente una scelta. Certo, perché noi tra l'altro non facciamo mai l'ipotesi al contrario. La portabilità del mutuo per chi ha un mutuo a tasso fisso è possibile? Certamente, la portabilità si applica a qualunque tipologia di tasso che si applichi al mutuo stesso. E si dirà una cosa, che ultimamente si è associata molto la surroga al tasso variabile, proprio perché il tasso variabile è salito tanto, e ci si dimentica come negli anni recenti, tra il 2000 e il 2001, i tassi fissi, vituperati perché alti allora, ma che avrebbero dovuto essere scelti per impedire poi di trovarsi con le rate più alte col variabile, erano molto più alti di adesso. Cioè tra il 2000 e il 2001 i tassi fissi medi per durate di 15, 20 o addirittura 30 anni andavano ad andare bene dal 7 fino a oltre l'8%. Quindi vuol dire che attualmente chi ha dei tassi fissi, che magari si sente tutelato perché non è andato a guardare esattamente qual è il suo tasso, qual è la sua rata, e sente parlare sempre di un variabile che sale, non si rende conto che sta tuttora pagando addirittura anche due punti e mezzo di tasso in più rispetto a quello che potrebbe ottenere sempre con un tasso fisso, surrogando il proprio mutuo e mantenendo comunque il tasso variabile. Quindi diciamo chi ha sottoscritto il variabile qualche anno fa e che a lungo tempo, abbiamo detto, insomma ancora ci sta risparmiando rispetto al fisso, adesso questo gap diciamo si è colmato. Sì, nel tempo si è colmato proprio perché i tassi sono via via saliti. Diciamo che magari il vantaggio che nel tempo attivo, però, sì, insomma, soprattutto per chi ha fatto mutui nel 2003 o all'inizio del 2004 è ancora nonostante tutto attivo, proprio perché allora le differenze di tasso erano notevoli. Il problema è per chi non ha approfittato di questo gap per accumulare un qualcosa da utilizzare adesso per far fronte alle rate più elevate. Francesca da Bergamo, benvenuta. Piacere, eccomi qua. Sì, anch'io sto pensando, in realtà non ne ho proprio un bisogno immediato, quindi sono nella fase in cui mi guardo intorno. La mia banca mi viene incontro con uno spread dello 0,85 e devo dire, anche perché insomma vabbè, c'è probabilmente una certa fiducia, e però ho trovato anche un'altra banca dove lo spread è dello 0,55, purché, questo è la domanda, io porti un vecchio mutuo che sta praticamente estinguendosi di un anno ancora, e credo che sia una surroga, quindi a quel punto posso scegliere tra l'altro tra variabile e fisso. In realtà acquisiscono un cliente in questo modo. Beh sì, ma con forse lo 0,55 è legato proprio all'opzione mista del mutuo, probabilmente, non lo so. Francesca, rimanga un attimo collegata con noi perché devo dare adesso ai suggerimenti per chi è in viaggio, però ci metterei forse anche... Lasciamo concludere Francesca? Sì, più che altro per capire se questo 0,85 è relativo a un nuovo mutuo che dovrebbe eventualmente fare... E questa fare... è la condizione che gli ha fatto la sua banca. Per però un nuovo neanche... mutuo, esatto. Però ne è un altro vecchio. Esatto, no, però un'altra banca gli ha detto ti faccio lo 0,55 Francesca, è così? Se però esatto. Tu mi porti un mutuo vecchio? E ma lei ce ne ha già uno? Un mutuo vecchio, ma esatto. Lei ce ne ha già uno in corso? Sì, ne ho uno in corso che in un anno si chiude. Tra l'altro, Cioè lei allora lo spread dello 0,85 che la sua banca attuale le farebbe è sul mutuo che lei ha già in corso. No, cioè... no, assolutamente nuovo, sarebbe proprio un nuovo mutuo. Una sostituzione. Il problema è se farlo, questo nuovo mutuo, con la banca con cui tra l'altro avevo quello vecchio, che aveva naturalmente altre condizioni, e a 15 anni l'idea sarebbe questa, oppure invece portarsi, visto che ho questa condizione di avere già un mutuo, perché questa banca mi fa lo 0,55, se io mi porto questo mutuo, probabilmente... Non so, evidentemente è un sistema per accaparrarsi i clienti. Ma è ovvio, le politiche commerciali molto aggressive sono fatte comunque per quello. Esatto, solvibili, perché bene o male non ho avuto problemi con quello precedente, quindi comunque. E non so cosa fare, cioè se vale così tanto la pena cambiare, surrogarlo con soprattutto quel discorso che faceva il precedente signore di Prato, sì. Che credo sia la convenzione ABI Tremonti, esatto. Dice. Allora, stavamo cercando di interpretare quali sono le condizioni del mutuo di Francesca, di quello nuovo che vuole accendere, di quello nuovo, di quello vecchio che sta chiudendo e delle offerte, insomma, che sta così un po' valutando e che ha scoperto, insomma, che le fa sia la banca con la quale ha il mutuo vecchio, sia quella nuova, insomma... Roberto, aiutami a fare un po' di... Ogni tanto sì, ti do del lei, ogni tanto del tu, no, ma insomma... Eccoci qua. Non c'è problema. Ma diciamo che, cercando di sintetizzare quello che diceva Francesca, se la sua banca attuale per il nuovo mutuo le offre uno 0,85 di spread e la nuova banca sempre per il nuovo mutuo le offre invece uno 0,55, è sicuramente un'offerta che può valer la pena prendere. L'importante è verificare che, dato che la condizione per avere quello 0,55 sul nuovo mutuo è trasferire questo mutuo residuo di un solo anno al nuovo istituto, è che questa operazione sia un'operazione per Francesca a costo zero, quindi che la nuova banca le garantisca che si tratti di una surroga e che si prenderà tutti i costi la banca e non invece Francesca, e che poi effettivamente lo 0,55 sia applicato per il nuovo mutuo e non magari per così fraintendimenti vari, strana, solo sì. sul vecchio muso, ma altrimenti l'operazione potrebbe essere sicuramente conveniente. L'accenno che invece faceva Francesca alla possibile rinegoziazione Tremonti, che si applicherebbe in questo caso al vecchio muso con un unico anno residuo, onestamente non vale ma la pena. Ma infatti, anche perché stare rimborsando solo il capitale, esatto, immagino qualunque sia stata anno, la durata di questo mutuo, infatti. Nell'ultimo anno da pagare ormai di interesse c'è veramente pochissimo. Metto insieme tre domande così a batteria poi rispondiamo a tutti quanti. Daniele da Roma, benvenuto. 800 24 00 24, numero verde che vi dà l'opportunità ancora di continuare a prenotare i vostri interventi, speriamo di riuscire a farne tanti altri. Daniele, buongiorno, vi ringrazio per lo spazio innanzitutto. Una domanda su un aspetto specifico che probabilmente avrete già esaminato, ma sì già vedo mille volte, mi fa sempre arrabbiare nella stessa misura, Daniele, questo aspetto comunque. Prego. Sì, capisco. Senta, il tema è questo: io ho due mutui a tasso variabile accesi rispettivamente nel 2002 e nel 2003, sì, con durate residue rispettivamente di 9 e 10 anni. Ho chiesto lumi sulla possibile portabilità e mi è stato risposto che che i crediti sono stati di fatto ceduti, o meglio cartolarizzati, e quindi c'è ben poco da fare, anzi nulla. L'unica alternativa proposta mi è stata quella. Infatti, no, Daniele, no, mi stava chiedendo Roberto Anedda, questo chi gliel'ha detto? Perché ci sono delle circolari ABI molto specifiche, molto precise. La banca vecchia o la banca nuova? La banca attuale con cui sono ancora. Ah, quindi ecco. L'eventuale surrogata, certo. No. Sì, faccia valere i suoi diritti, perché la vecchia banca non ha alcuna giustificazione per dirle che il mutuo non può essere. Deve recuperare surrogato. La società veicolo a cui ha ceduto questi crediti, a cui ha venduto questi mutui, questo pacchetto, all'interno del quale oltre a ciò ce ne saranno altre centinaia, Daniele, per cui quella sarà poi l'interlocutore, evidentemente. No, ma in ogni caso l'interlocutore rimane sempre la banca originaria, Roberto, no? Anche per l'eventuale operazione di surroga. Potrebbe anche bisognerebbe essere vedere il veicolo, poi nel contratto specifico di cessione tra la banca e il veicolo. Cosa ci sia specificato, se addirittura la banca abbia demandato al veicolo l'interfaccia con il cliente per qualunque gestione ulteriore, in alcuni casi può anche verificarsi, però comunque sia la cartolarizzazione non è ostativa, scusate il termine, no, infatti, un po' arcaico, abbiamo... al fatto che si possa surrogare il mutuo, può complicarlo in termini burocratici, quindi torniamo a quello che dicevamo all'inizio, ci potrà volere un po' di tempo in più, però sicuramente la cosa è fattibile. Esiste anche una procedura automatica di surroga, che è quella che è stata largamente sponsorizzata anche dall'ABI, che ha fissato appunto questa procedura automatica, no, di dialogo fra le due banche, la surrogata e la surrogante. La surrogante, eventualmente, nel caso del nostro ascoltatore, potrebbe dialogare direttamente con l'istituto che l'ascoltatore vuole abbandonare e quindi eventualmente aiutarlo a superare gli ostacoli legati alla cartolarizzazione del suo mutuo? Questo sicuramente, va detto che anche quella procedura è una procedura automatizzata che si applica a una serie di passaggi documentali e anche di informazioni, ma non a tutto, quindi serve a standardizzare tempi e risposte, come ad esempio il conteggio istintivo e altre attività necessarie per espletare l'attività della surroga, ma purtroppo ce ne sono anche delle altre, che sono quelle che accennavamo all'inizio, sulle quali la banca surrogata, cioè la vecchia banca che sta perdendo il cliente, un po' gioca con i tempi e la propria disponibilità per allungare la fine, diciamo, del vecchio mutuo, anche se solo di qualche mese, e complicare in qualche modo la vita sia alla nuova banca che diventa sua concorrente, sia al cliente che ha deciso di abbandonare. Paolo da Milano, salve. Salve. Eccomi, buongiorno, salve. Paolo, abbassi la radio per carità, perché aspetta, sento rientro. Sì. Aspetta. Rapidissimo, allora, grazie. Racconto di cosa si tratta. Allora, io ho appena surrogato il mio mutuo. Bravo. Peraltro ho fatto un'istruttoria nel mese di luglio per vedere quale banca in pratica mi trattava meglio. Ho avuto delle difficoltà spaventose per riuscire a surrogare, a cominciare dalla mia stessa banca, che adducendo il fatto che era stato cartolarizzato comunque la dimostrazione che lei alla fine, anche se ha lottato, è riuscito a fare l'operazione di surroga. Sì, ce l'ho fatta, ma è stata veramente una battaglia finente, perché è diventato un lavoro per me, ma comunque lasciamo perdere. Alla fine, grazie a Dio, ce l'ho fatta, ho chiuso nel mese di settembre, optando per il tasso fisso, mai più quello variabile, ma per il fisso ottenendo un 5,50. Sì. Lo spread credo che fosse allora in rapporto all'IRS, credo lo 0,60 addirittura da parte della banca. Ci sembra. Sì, ottimo. Allora, la mia domanda era questa: io non ho fatto questa operazione perché avevo delle difficoltà nel sostenere la rata, che nel frattempo era passata da 2.500 euro al mese a 4.500, per cui quasi al raddoppio. Ma in realtà l'ho fatto per non buttare via quattrini, nel senso, giustamente, mi sembra una ragione più che valida, Paolo. Esatto. Allora, adesso la mia domanda è questa: visto che siamo tutti sostenitori di mercato, si parla di liberi mercati, e io ho il dente abbastanza avvelenato con le banche, poi dopo spiego anche il perché. No, Paolo, vada la domanda, la prego. Dunque questo, io ho appena surrogato, ieri la Banca Centrale Europea ha ridotto i tassi, io posso avere una convenienza a questo punto nel surrogare di nuovo, anche se l'ho fatto nel mese di settembre? Domanda, ci sono dei costi? B, può valere veramente la pena o c'è comunque, come dire, una soglia di spread minima entro il quale tutta questa operazione può valere la pena? Paolo, sì, mamma mia come urla Paolo, comunque molto bravo, in ogni caso che è riuscito a portare avanti la surroga nonostante il mutuo cartolarizzato, lo spread allo 0,60 mi sembra già piuttosto buono e lui ha già ottenuto una condizione piuttosto vantaggiosa. Cosa potrà succedere? Insomma, potrà valersi di condizioni migliori nel futuro e chi lo sa? Innanzitutto la situazione di Paolo è emblematica di come la surroga effettivamente funzioni e addirittura dopo essersi mosso appena a luglio, in pochi mesi, nonostante le difficoltà che lui stesso ci ha testimoniato, l'operazione si è chiusa. Quindi un conforto per tutti quelli che magari si fanno scoraggiare dalle voci che circolano e che magari rinunciano a quella che Paolo ha definito in maniera importante e intelligente un'opportunità di risparmio. Quindi non bisogna aspettare o per di forza essere strozzati, per sentirsi forza, certo, necessitati a cercare una surroga solo se sono in difficoltà perché non riesco a pagare la retta scolastica. Anche se la retta è sostenibile, certo, di mio si può figlio. Sempre anche se sono tranquillo, di posso trovare delle opportunità di risparmio. Nel caso specifico di Paolo, considerando che è un fisso al 5,5, nonostante il taglio attuale che abbiamo visto non ha particolari effetti, non avrebbe un gran vantaggio al momento. Dovrebbe vedere, magari visto che può essere interessato e ha questa propensione al risparmio, verificare nel corso del tempo. Se ha appena concluso adesso l'operazione, che aspetti almeno qualche mese a vedere se i tassi al momento si non conviene proprio davvero. Per non fare tutta una trafila ulteriore. Ci rimangono 30 secondi, Anedda, non riesco a far intervenire altri ascoltatori. Sintetizzo io magari la domanda di uno di loro. Giorgio da Napoli le voleva chiedere se accetta la convenzione ABI e quindi aderisce adesso subito all'opzione che gli riporta la rata sui livelli del 2006 a partire da gennaio, perché non parte subito. Fra qualche anno potrebbe eventualmente nuovamente rinegoziare? No, la rinegoziazione va sottoscritta o accettata, dal cliente entro la fine di novembre, poi si applica solo per quelle condizioni. Successivamente non è al momento attuale previsto che possa essere riaperta, un po' come lo swap un ritorno dei bond argentini. Grazie. No, mamma mia, che brutta parola che ha detto sul finale. Grazie a Roberta Anedda per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, torneremo ovviamente su tutto quello che sta accadendo sul mercato, sulle condizioni che cambiano, sulle nuove garanzie del governo messe sui nostri depositi, sui nostri prodotti di investimento. Parleremo anche di obbligazioni bancarie. Da Deborah Rosciani, buona giornata. We'll be right back.